alza. Vieni con fine. Siamo delinquenti negli stessi momenti. C'è chi spara, le menti siamo in acqua e bollenti. Forse la voce di Sinatra, forse una croce come un'altra. Magri in queste labbra investe la corrente alternata. Come ti standa? Sì, quei individui fanno rap come se fosse un wrestling. Complessi, continui, riflessi in un mondo nei pressi o anche impressi. Stronzi noi che trovi questo mondo di dispensi. Colpi sommersi da Matrix, silicon, fini librido. Il brivido di Bugs Bunny in questo mondo incastrato. Labrador questa trasfigurigi, rabbit, scappi, Rashid, alza. Cosa ci sta? Alza, alza, rispetto come la bomba unita. Amici per sempre, buoni amici, ma niente, etica ni coma. Forse agli ultimi vomito, risorsi in un mondo che ha nient'altro risposte. Gettato al mondo come un essere colpevole, vita rendevole, nel mondo ambiente dell'utilizzabile. Primate ontologico, oblia l'angoscia nell'equivoco, ma inautentico, non è il suo senso univoco. Nudo di fronte al proprio essere, velato alle modalità del proprio esistere. Finché so viva, lo possegga, la curia, sopravvivendo ad un sistema di tortura. La sua cultura, la tua cultura. Distruzione anche troppi opti. Oggi so chi con troppi da spot. Un mondo da shock, cadaveri sopra tombe campano. Stop no, congeniale Rashid, butta più di un lama nell'iper universale. Se per te risulta assurda, la casa degli spiriti adatta alla gente più matta, conforme all'iter bada costata. Troppe iene ride, cassi indipendenti, tra videoclip che cannaveral fine.